Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Sara, non volevo disturbarla. Ma si levi dalle palle. Avete rotto i coglioni. Io non volevo. Ma avete rotto le palle, chiaro? Io la lasciavo anche andare dove voleva. Mi diceva non volevo parlare. Questo che avete sentito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è Tiziano Renzi, padre di Matteo, che esasperato, diciamo, dalle attenzioni nei suoi confronti, nei suoi riguardi, soprattutto a partire dagli ultimi sviluppi dell'inchiesta Consip, che riguardano le intercettazioni tra lui e il figlio Matteo Renzi, ha reagito così a un giornalista che, insomma, lo inseguiva per intervistarlo in mezzo alla strada. Si può capire l'esasperazione, al di là che abbia torto o ragione. Di questo parleremo appunto dei nuovi sviluppi, come possiamo definirli, un po' collaterali dell'inchiesta Consip. Poi vi ricorderò anche che cos'è questa inchiesta Consip, che comunque vede coinvolto anche il padre di Renzi, Tiziano Renzi, indagato per il momento per traffico di influenze. E oggi è stato pubblicato dal Fatto Quotidiano un'anticipazione del libro di Marco Lillo, dove appunto sono trascritte queste intercettazioni in cui Renzi chiede al padre di dire la verità sulla vicenda e sui suoi incontri. Renzi poi ha fatto una lunga risposta su Facebook, prima con un post, poi oggi in diretta Matteo risponde. Insomma, ce ne occuperemo ampiamente, anche perché adesso la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per sapere come mai queste intercettazioni sono state passate al Fatto Quotidiano, a Marco Lillo, che poi le ha pubblicate. E poi ci occuperemo, fra le molte cose, fra i molti temi di questa sera, anche della decisione della Cassazione sul ricorso di Berlusconi e l'assegno alla moglie di 2 milioni. La Cassazione ha respinto il ricorso di Berlusconi, ha detto no, è l'uomo, uno degli uomini più ricchi del mondo, non è ancora divorziato, è solo separato, e quindi l'assegno di mantenimento deve essere quello confermato dall'ultima sentenza, quindi di 2 milioni. Voi potete naturalmente su questi temi e altri, come sempre, fare i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS, che è 349-238-6666, 349-238-6666. Però prima, come sempre, vi faccio il riassunto dei fatti principali della giornata. L'inchiesta Consip, la Procura indaga sulla rivelazione delle intercettazioni tra Renzi e il padre. Quelle frasi ribadiscono la mia serietà, dice l'ex presidente del Consiglio. Bufera su Trump, avrebbe condiviso informazioni di intelligence con la Russia. L'Unione Europea minaccia di non condividere più informazioni segrete con gli Stati Uniti. Migranti, cala il numero degli arrivi in Europa ma aumentano gli sbarchi in Italia. Stop ai corridoi gestiti dalle sole ONG. Legge elettorale, il PD vota no al testo base presentato dal relatore. Funivia di Roma, blitz di Casa Pound, la sindaca Raggi va via scortata tra gli insulti, tensione con la polizia. La Cassazione respinge il ricorso di Berlusconi e conferma che dovrà versare a Veronica 2 milioni al mese perché nella separazione vale il tenore di vita. Ciclismo, Tom Dumoulin vince il cronometro di Montefalco ed è la nuova maglia rosa del Giro d'Italia. Partiamo quindi, come avete sentito, dal caso Consip, la maxi inchiesta nella quale c'è un nuovo filone, nel quale è indagato Carlo Russo per turbativa d'asta. L'imprenditore toscano Carlo Russo è già indagato per traffico di influenze illecite insieme a Tiziano Renzi. Ma i riflettori delle ultime ore, come vi dicevo, sono puntati soprattutto sulle intercettazioni della telefonata tra Matteo Renzi e suo padre, pubblicate questa mattina dal Fatto Quotidiano. La Procura di Roma, a questo proposito, ha aperto un fascicolo. L'ex presidente del Consiglio Renzi ha risposto in più occasioni. Un'altra anticipazione di un libro a far discutere, un altro rapporto padre-figlio al centro, da Maria Elena Boschi a Matteo Renzi, e la telefonata con il padre Tiziano datata 2 marzo 2017. Il testo dell'intercettazione arriva al giornalista del Fatto Quotidiano Marco Lillo, che la pubblica nel suo libro Di padre in figlio. Prima ancora, il Fatto in edicola anticipa il contenuto. Il giorno dopo Tiziano Renzi deve essere interrogato sui rapporti con Alfredo Romeo, accusato di corruzione per gli appalti Consip. Telefonata che a leggerla fa sentire a disagio, perché si avverte di violare la privacy di un rapporto familiare. È una cosa molto seria, dice Renzi al padre, e si raccomanda: devi ricordarti tutti gli incontri e i luoghi, stai distruggendo un'esperienza, devi dire nomi e cognomi. Matteo Renzi ne esce bene, invita a dire la verità, colloquio ritenuto penalmente irrilevante a Piazzale Clodio, colloquio che non compare in alcuna informativa. La procura indaga ora per violazione del segreto istruttorio e pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale. Anche il ministro della giustizia Orlando, tramite l'ispettorato generale, ha avviato accertamenti preliminari. Annalita Lambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La pubblicazione della telefonata tra me e mio padre è illegittima, attacca Matteo Renzi su Facebook sulla vicenda Consip. Per il segretario PD è stata violata la privacy. Sono almeno 20 anni che c'è questo malcostume di pubblicare intercettazioni anche irrilevanti. Si rifletta su quello che sta accadendo, ma io non ho alcun titolo per chiedere alcunché su questo. Ad altri è andata peggio. Devo dire però che umanamente queste intercettazioni mi feriscono. In quella telefonata io sono molto, molto, molto duro con mio padre. Ma le intercettazioni con il padre non sono l'unica preoccupazione dell'ex premier. Altra questione sul tavolo è quella della legge elettorale. Il PD conferma la linea del no al cosiddetto Italicum bis e voterà contro il testo base in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. Spero che il PD possa convincere gli altri partiti ad andare verso il sistema del Mattarellum, che era il sistema dei collegi uninominali, se non al 75% come era nella legge che prende il nome dall'attuale Presidente della Repubblica, almeno al 50%. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso occupiamoci invece di Stati Uniti, anche se il suo staff e la Russia hanno smentito le rivelazioni del Washington Post. Il presidente americano Donald Trump ha ammesso di aver rivelato informazioni top secret al ministro degli esteri russo Lavrov. Come presidente, dice, volevo condividere con la Russia, cosa che ho il diritto assoluto di fare, fatti relativi al terrorismo, ha scritto Trump in un tweet. Ora i paesi dell'Unione Europea però potrebbero smettere, come minacciano, di condividere informazioni di intelligence con gli Stati Uniti. Ma il consigliere per la sicurezza nazionale americano McMaster ha detto che Trump non ha compromesso alcuna fonte di intelligence nel suo colloquio con i russi e che non teme uno stop di informazioni con l'Europa. Oggi, tra l'altro, il presidente americano ha ricevuto la Casa Bianca e il presidente turco Erdogan. Sosteniamo la Turchia contro l'ISIS e il PKK, ha detto Trump, e ha assicurato pieno appoggio sulla Siria negli sforzi per mettere fine alle violenze. Intanto gli americani, proprio di Siria, non cedono sulle accuse rivolte a Damasco sulla eliminazione dei prigionieri in forni crematori. Sentiamo il commento di Alberto Negri. Forni crematori per eliminare gli oppositori uccisi nel carcere di Saydnaya. È questa l'accusa lanciata dagli Stati Uniti al regime di Bashar Assad. Un'accusa terribile, come peraltro l'uso delle armi chimiche che sarebbero state impiegate da Assad nel villaggio di Ras Shaikun, evento che ha scatenato un lancio di missili americani e che non è stato ancora provato con certezza neppure dalle indagini delle Nazioni Unite. Non siamo in grado di dire se le accuse americane al regime di Damasco siano vere. Diciamo che possono apparire verosimili nel contesto di una guerra civile che in 6 anni ha provocato oltre 400.000 morti e 5 milioni di profughi. Ma questa non è soltanto una guerra civile. Il conflitto siriano è una guerra per procura che vede coinvolte grandi potenze, la Russia, gli Stati Uniti e tutti i maggiori attori regionali, dall'Iran alla Turchia a Israele. Il quadro è quello di una guerra mondiale a pezzi, come direbbe il Papa. Qual è allora la realtà dei fatti? È una parte di verità e una parte di menzogna. È la verità del momento, dell'attimo fuggente, di quel che serve a produrre dichiarazioni indignate e allo stesso tempo reazioni sdegnose e scettiche. Le vittime, anche quando sono vere, come in Siria, diventano strumento di distrazione di massa. E adesso ancora all'estero, in Venezuela, più di 40 giorni di proteste in piazza, più di 40 morti nelle manifestazioni, compresi 2 diciassettenni uccisi nelle ultime 24 ore, centinaia di feriti, di arresti, una crisi politica ancora senza una via d'uscita. Sul Venezuela si allunga quindi l'ombra della guerra civile. Le manifestazioni di lunedì scorso, giorno in cui l'opposizione aveva convocato un nuovo sit-in nazionale contro il governo di Maduro, confermano l'esistenza di una spirale di scontri e violenze che ormai sembra sfuggire di mano i principali protagonisti della contesa. E guardavo proprio adesso un ultimo dispaccio di agenzia che parla di un altro morto in Venezuela, un manifestante di 31 anni, morto alle periferie di Caracas, colpito da un colpo d'arma da fuoco. Il bilancio quindi sale adesso a 48 morti in questi scontri che appunto rischiano di degenerare in una guerra civile in Venezuela. Parliamo adesso di migranti. Oggi l'agenzia europea Frontex ha pubblicato nuovi dati sugli arrivi e sempre oggi la Commissione Difesa del Senato ha presentato la relazione sulla presenza delle ONG nel Mediterraneo. Non è accettabile la creazione di corridoi umanitari da parte delle ONG perché questo ruolo è politico e spetta agli stati. Le ONG che fanno soccorsi devono poi essere certificate e la loro presenza in mare è coordinata dalla Guardia Costiera Italiana. Questa è in sintesi la posizione espressa dalla Commissione Difesa del Senato e presentata dal presidente Nicola Latorre, il quale ha confermato che non esistono indagini in corso a carico di organizzazioni non governative. Nessun magistrato ha detto che sono in corso indagini. Il procuratore di Trapani ci ha detto che è in corso un'indagine che riguarda alcune persone che operano all'interno di queste operazioni, e tutti e tre i magistrati ci hanno chiesto più strumenti per poter indagare contro i trafficanti. E mentre il pentastellato Di Maio chiede di impedire alle imbarcazioni delle ONG non trasparenti lo sbarco nei nostri porti, dati Frontex dicono che nei primi 4 mesi di quest'anno il numero di migranti arrivati illegalmente in UE è diminuito dell'84% rispetto allo stesso periodo del 2016, ma non in Italia, dove anzi gli arrivi sono aumentati del 33%, il tutto mentre il meccanismo dei ricollocamenti appare inceppato. Nell'ultimo anno sono stati infatti 18.000 trasferimenti da Italia e Grecia contro i 160.000 preventivati. Bruxelles lancia un ultimatum ai paesi dell'est, in particolare ad Ungheria, Austria, Polonia e Repubblica Ceca. Se non accoglieranno profughi a giugno, potranno aprirsi per loro procedure di infrazione. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di immigrazione, della polemica sulla mancanza di case a Roma per gli italiani e la presenza di centri d'accoglienza, questo pomeriggio al 13° municipio della capitale, mentre era in corso la presentazione del progetto della Giunta Raggi sulla funivia che dovrebbe collegare Casalotti a Battistini, hanno fatto irruzione militanti di Casa Pound. Sentite, al grido di dimissioni hanno costretto la sindaca a uscire dalla sala scortata dalla polizia. Ci sono stati momenti di tensione tra i militanti di Casa Pound e le forze dell'ordine. E tornando invece al progetto, la funivia dovrebbe costare 90 milioni di euro, trasportare 3.000 passeggeri l'ora ed essere completata entro il mandato della Raggi. E poi la legge elettorale, quali sono le novità? Il capogruppo del PD in Commissione Affari Costituzionali, Emanuele Fiano, ha annunciato oggi ufficialmente in Commissione il no opposto oggi al testo base del relatore, del testo base presentato oggi riguardo la legge elettorale. E poi dicevamo, altro argomento di cui ci occuperemo poi nel corso di Effetto Notte, la Cassazione che respinge il ricorso di Berlusconi. I supremi giudici hanno respinto il ricorso del leader di Forza Italia contro il maxi assegno all'ex moglie Veronica Lario, rilevando che la separazione non elide la permanenza del vincolo coniugale e il dovere di assistenza garantendo il precedente tenore di vita. Quindi dovrà pagare i 2 milioni di euro che già erano stati stabiliti in precedenza, visto che è stato bocciato il ricorso di Berlusconi. Ce ne occuperemo anche per capire come si coniuga questa decisione della Cassazione con la sentenza della Cassazione, vi ricordate, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, che è stata presentata come epocale. Poi una notizia che riguarda l'omofobia: gli stati hanno l'obbligo di proteggere le persone LGBT dagli atti di violenza e dalle discriminazioni di cui sono vittime e che si stanno moltiplicando. Questo è quanto afferma il segretario generale del Consiglio d'Europa, Jagland, alla vigilia, domani, vigilia oggi della giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia, che si celebra il 17 maggio. La discriminazione e la violenza nei confronti delle persone LGBT rappresenta, dice il segretario generale del Consiglio d'Europa, un esempio di populismo della peggior specie, costituisce quindi un pericolo per la democrazia contro il quale i governi devono reagire facendo il massimo per porvi fine. Per chiudere il ciclismo, Tom Dumoulin vince il cronometro di Montefalco e della nuova maglia rosa del Giro d'Italia. A questo punto, quindi, il giro intorno alle notizie principali è stato compiuto e direi che ci possiamo sentire tra pochissimo dopo la viabilità per cominciare ad approfondire alcuni temi in particolare, a partire naturalmente da questi sviluppi, da queste intercettazioni relative a una telefonata tra Matteo Renzi e il padre Tiziano pubblicate oggi sul Fatto. 349-238-6666 per i vostri messaggi WhatsApp, oppure c'è sempre a vostra disposizione la pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio. Diop da Torino, ancora sulla notizia di ieri, dice: sono straniero musulmano, vivo da 26 anni in Italia, ma non dovevamo aspettare la corte che ci dica di rispettare le leggi del paese che ci ospita? Nel senso, dice Diop, è giusto che così sia. Questa era una notizia importante di ieri. Adesso soffermiamoci invece su quelle di oggi. Per esempio c'è questo messaggio di Clotilde che dice: il vostro modo di dare notizia della telefonata di Renzi col babbo è faziosa, intanto il figliolo sa che il babbo è intercettato e parla di conseguenza, infatti lo rivendica, ma quando dice non dire della mamma altrimenti la interrogano, questo nessuno lo dice. Allora Clotilde, non abbiamo affrontato l'argomento, tra poco. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Bene, le notizie ve le ho raccontate come sempre in un riassunto della giornata. Adesso alcuni temi in particolare da approfondire con gli ospiti, i primi ospiti che saluterò tra pochissimo, mentre voi potete continuare ad aderire alla pagina Facebook di Effetto Notte e a scrivere i vostri commenti sulle notizie del giorno, così come al numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. Un ascoltatore scrive: questa è un'intercettazione costruita in combutta coi disservizi segreti utili a riabilitare Lotti del 7 e lo stesso Renzi figlio, in quanto il padre sarebbe già compromesso almeno per ora, anche se non è chiarissimo perché dovrebbe riabilitare. Ascoltatore o ascoltatrice, mettete un nome d'arte, vi ho detto varie volte, e adesso proseguiamo con tra poco ancora con i vostri messaggi, ma direi se non avete acceso puntualmente alle 21 vi ricordo almeno quali sono i titoli in primo piano. Inchiesta Consip, la procura indaga sulla rivelazione delle intercettazioni tra Renzi e il padre. Quelle frasi ribadiscono la mia serietà, dice l'ex presidente del Consiglio. E poi Trump nell'occhio del ciclone, avrebbe condiviso le informazioni di intelligence con la Russia e quindi l'Unione Europea adesso minaccia di non condividere più informazioni segrete con gli Stati Uniti. Per quanto riguarda i migranti, cala il numero degli arrivi in Europa ma aumentano gli sbarchi in Italia. Intanto la Commissione del Senato, di difesa del Senato, dice stop ai corridoi gestiti dalle sole organizzazioni non governative. Legge elettorale, il PD vota no al testo base presentato dal relatore. Funivia di Roma, blitz di Casa Pound, la sindaca Raggi va via scortata tra gli insulti, tensione con la polizia. E la Cassazione che respinge il ricorso di Berlusconi e conferma che il leader di Forza Italia dovrà versare a Veronica Lario 2 milioni al mese perché nella separazione vale il tenore di vita. Per il ciclismo, Tom Dumoulin vince la cronometro di Montefalco ed è la nuova maglia rosa del Giro d'Italia. Allora, dicevamo di questi sviluppi, come possiamo definirli, un po' collaterali, all'atere, non so bene come definirli perché ci potrebbe essere anche un elemento di illecità, illegittimità in queste intercettazioni. Comunque la pubblicazione di queste intercettazioni, dicevamo, questo ulteriore sviluppo riguarda appunto delle intercettazioni telefoniche intercorse tra Matteo Renzi, segretario del PD, e il padre Tiziano, che sapete coinvolto nell'inchiesta Consip, al quale padre avrebbe detto queste intercettazioni di sulla vicenda Consip tutta la verità ai magistrati. Però facciamo qualche passo indietro per ricordarci un po' in cosa consiste questa inchiesta Consip. Il caso Consip è esploso, ve lo ricordo, con l'arresto dell'imprenditore campano Alfredo Romeo, che fu arrestato per corruzione nell'inchiesta sugli appalti Consip. La Consip è, ve lo ricordo, il centro acquisti della pubblica amministrazione, che ha come compito principale diciamo di rendere più efficiente e trasparente l'utilizzo delle risorse pubbliche. L'accusa formulò l'ipotesi dell'esistenza proprio di un sistema Romeo, cioè un sistema fatto di tangenti e favori in cambio di appalti. Per l'accusa Romeo avrebbe dato 100.000 euro all'ex dirigente della Consip, Marco Gasparri, che gli forniva informazioni riservate sui bandi di gara. Nell'inchiesta sono indagati, fra gli altri, per traffico di influenze anche appunto Tiziano Renzi, padre appunto di Matteo Renzi, e l'imprenditore Carlo Russo, che adesso è un altro capo di imputazione proprio di oggi, è anche una novità. Praticamente in cosa consiste questo traffico di influenze? Cioè Renzi, sfruttando la parentela con il figlio, avrebbe fatto insieme all'imprenditore Carlo Russo da intermediari, da facilitatori tra corruttore e corrotto in cambio di soldi. Tiziano Renzi ha respinto ogni coinvolgimento, però adesso perché il caso riprende quota nei media? Per le intercettazioni telefoniche, per l'appunto, i cui testi sono apparsi oggi sul Fatto Quotidiano, che in realtà è un'anticipazione del libro di Marco Lillo di Padre in Figlio, e oggi il Fatto Quotidiano ha pubblicato il testo di queste intercettazioni, in cui praticamente Matteo Renzi chiede al padre di dire tutta la verità ai magistrati sui suoi incontri, insomma sulla vicenda Consip. Varie le reazioni politiche. Renzi in un primo momento ha fatto un lungo post su Facebook in cui dice quelle frasi, fra le altre cose dice: quelle frasi non fanno altro che confermare la mia serietà, visto, dice, sottintende che ho chiesto a mio padre di dire la verità. E poi la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per violazione del segreto, perché dice: come sono arrivate queste intercettazioni al Fatto Quotidiano? Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando avvia anche lui una verifica sulla fuga di notizie. Renzi poi dice oggi nel Matteo Risponde, ha detto: la pubblicazione della telefonata tra me e mio padre è vergognosa, è illegittima, qualcuno sta facendo qualcosa di illegittimo e non siamo noi, il Movimento 5 Stelle attacca e dice è una cricca in azione. Allora ne vorrei parlare con due colleghe del Sole 24 Ore, ottime, Sara Monaci e Barbara Fiammeri, buonasera. Buonasera. Buonasera. Allora, comincerei da Sara Monaci sulla parte più giudiziaria. Sara, ho cercato di fare questa sintesi. Sì, perfetta. Direi perfetta. Allora, l'inchiesta la continuiamo a chiamare Consip, ma vorrei sottolineare che in questi ultimi sviluppi di Consip ormai c'è rimasto poco, perché l'inchiesta non è più sull'inchiesta, ma sul modo in cui l'inchiesta si è svolta. Quindi ormai è chiaro che stiamo parlando anche di uno scontro a questo punto piuttosto palese, per quanto ufficioso, tra la Procura di Roma e la Procura di Napoli. Quello che è avvenuto oggi è chiaramente un esempio, perché abbiamo un'intercettazione che non è stata depositata tra gli atti, cioè è stata, per chiarire, svolta ma non ritenuta penalmente rilevante, cosa che a volte capita, e peraltro a volte le cose non penalmente rilevanti non è detto che non lo siano politicamente o giornalisticamente. Qui però siamo dentro un crinale un po' più pericoloso, un po' più scivoloso, perché questa inchiesta sul traffico di influenze illecite, che vede come protagonista, come incolpato, indagato Tiziano Renzi, padre di Matteo, è stata trasferita da Napoli a Roma il 21 dicembre, quindi i titolari dell'inchiesta sono i PM di Roma, per quanto ne sappiamo. L'intercettazione di cui oggi abbiamo potuto leggere i contenuti sul Fatto Quotidiano si riferisce ad un'intercettazione del 2 marzo 2017, quindi evidentemente non è stata autorizzata, questo almeno ci risulta, dalla Procura di Roma, pur essendo la titolare dell'inchiesta. La Procura di Napoli ha continuato ad intercettare Tiziano Renzi, probabilmente seguendo altre tracce, intercettazione che è stata comunque autorizzata da un GIP e chiesta dal procuratore Woodcock, evidentemente per altre questioni. Parliamo ad esempio della corruzione di cui è accusato Alfredo Romeo, quindi quel giro di appalti che sarebbero probabilmente stati turbati a Napoli e di cui ancora Napoli si sta occupando. Insomma, la vicenda, la questione delle date e del chi ha autorizzato le intercettazioni, secondo il mio punto di vista, non è esattamente irrilevante, perché evidentemente almeno stabilisce il fatto che la gravità dei comportamenti per due procure quantomeno è differente, escono delle cose differenti e comunque non coordinate. Sara, quindi secondo te è solo una questione di punti di vista, di esigenze diverse da parte di una procura e dell'altra sull'inchiesta, oppure c'è anche uno scontro tra le due procure? Ufficialmente sono anche formalmente corrette, sono intercettazioni, ci risulta, autorizzate da un GIP. Evidentemente però è insolito, un modo di procedere insolito, un'inchiesta che viene trasferita a Roma è ancora però oggetto di indagine con tanto di intercettazione, che voglio dire, l'intercettazione è una cosa non scontata in un'inchiesta, perché anche qui il traffico di influenze illecite, il reato di cui è accusato Tiziano Renzi, non prevederebbe l'uso di intercettazioni, perché è un reato che è rilevante, ma è punibile con 3 anni di carcere, se non sbaglio. Quindi non sono previste le intercettazioni. Le intercettazioni sono di solito previste per reati più gravi, che potrebbero essere appunto l'associazione a delinquere che si è svolta a Napoli. Però intanto Tiziano Renzi risulta indagato a Roma e non a Napoli, quindi lui è stato ascoltato come testimone, probabilmente. Ci sono un po' di incongruenze, insomma. Sara, ma dimmi una cosa, siccome vari ascoltatori chiedono com'è possibile che queste intercettazioni siano arrivate a dei giornalisti, no? Allora, chiariamo subito, Gli atti delle inchieste arrivano ai giornalisti, o i giornalisti sono bravi a cercarsele, sono pieni i giornali, altrimenti non scriveremmo più. Certamente ogni giornalista sa fino a che punto può spingersi e ognuno decide qual è il proprio limite. Qui stiamo parlando di atti non depositati, quindi non ritenuti penalmente rilevanti. Si può certamente obiettare che dal punto di vista giornalistico potrebbero essere anche interessanti. Certamente sì, però effettivamente poi la Procura di Roma ha reagito con un'inchiesta per fuga di notizie e Orlando, il Ministro della Giustizia, ha già aperto comunque un'indagine. Voglio aggiungere che il procuratore Woodcock in questo momento è sottoposto ad un'azione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Tutti questi elementi ovviamente ci fanno anche pensare che non si è trattata di una fuga di notizie così banale o come avviene in tante altre inchieste. Qui siamo di fronte a una questione molto più delicata perché riguarda indirettamente il Premier. Quanto al contenuto di questa intercettazione, sentivo appunto che ricordavi il fatto che qualcuno sospetta il fatto che siano stati in qualche modo utilizzate pro domo. Sì, Sara, guarda, leggo velocemente i messaggi, sì. Per esempio dice Rocco, Renzi intercettato, io anche nella stessa situazione avrei chiamato mio padre, con mio padre al centro di un'inchiesta, darei per scontato che sia intercettato dal mondo intero, quale occasione migliore per sciacquare i panni dell'Arno? Poi dice Lidia, ma ti pare possibile che Renzi figlio non sapesse che il padre era ancora intercettato? Un altro messaggio, il signor Renzi ci ha presi tutti per fessi, lo capisce anche un bambino che una telefonata fatta ad hoc per scagionarsi sapendo di essere intercettati. Mauro scrive, ma guarda un po', sapeva di essere intercettato, il teatrino va in onda, insomma, diciamo che se, spero non lo sapesse, perché se lo sapeva addirittura allora vuol dire che proprio le inchieste fanno acqua da tutte le parti. Diciamo che si può tranquillamente sospettare che durante un'inchiesta una persona sia intercettata, tanto più se si chiama Tiziano Renzi. Anche secondo me, diciamo che alla fine questo palesarsi di questa intercettazione non è così negativo nei confronti di Renzi, però chiaramente questa mattina è stato insidioso perché poi il titolo estrapolato è non dire bugie, dando per scontato che lui le potesse non soltanto dire, ma addirittura lo stesso figlio lo potrebbe sospettare. Pensare che dica bugie. Chiarissimo, Sara Monaci, dal punto di vista giudiziario. Grazie mille, Sara. Grazie a voi. Ciao, Sara. Ciao. Invece con Barbara, dal punto di vista politico, allora diciamo l'intercettazione in sé, quello che Renzi dice al padre o chiede al padre non è penalmente rilevante, ma da un punto di vista politico che cosa succede? Anzi Barbara, ti farei sentire anche almeno uno o due passaggi di Renzi oggi nella diretta Facebook per difendersi, sentiamo. Sono anni che va avanti così, sono almeno 20 anni che c'è questo malcostume di pubblicare intercettazioni anche irrilevanti. Questo è un tema che a questo punto io lascio al codice di disciplina, al codice deontologico dei giornalisti. Io sono un grande sostenitore del lavoro dei giornalisti. Si rifletta su quello che sta accadendo, ma io non ho alcun titolo per chiedere alcunché su questo. Ad altri è andata peggio. Stiamo parlando di pubblicazioni che la legge non permette di pubblicare. Quindi, siccome io sono per la legalità, sarei curioso di capire perché qualcuno sta violando la legge. E quel qualcuno non sono io, non siamo noi. Barbara, a te il commento politico su questa vicenda, su questo sviluppo ulteriore di questa vicenda intricata che ha più filoni di un panettiere, diciamo, la vicenda Consip. Sì, anche perché, insomma, questa storia è una... Come la leggiamo una brutta storia, perché tra le altre cose ce ne sono talmente tante che poi ce le dimentichiamo. Una di queste è che c'era anche l'iscrizione nel registro degli indagati di uno degli inquirenti, cioè il carabiniere Giampaolo Scafarto, che è stato indagato per falso, perché aveva l'accusa è che avrebbe manipolato una intercettazione telefonica per incastrare Tiziano Renzi, cioè quella in cui praticamente viene attribuito una dichiarazione di Italo Bocchino come se avesse incontrato Matteo Renzi. Cioè c'era stato l'avevano attribuita a Romeo anziché a Italo Bocchino. Quindi ci sono un po' di cose che non tornano, tipicamente direi italiane, no? Cioè quando ci sono quando vengono in mezzo, insomma, scontri tra procure, carabinieri che insomma non sembrano proprio deviati, non lo so se deviati, però deviati, magari distratti. Sicuramente è un bel pasticcio, è un bel pasticcio. Poi teniamo conto che comunque intercettare un presidente del Consiglio che si chiami Matteo Renzi, Silvio Berlusconi o non so, magari Luigi Di Maio, non è mai una bella cosa in un paese, secondo me. Comunque, per Renzi, che poi sapesse o meno di essere intercettato, questa ondata di chiacchierate con il padre certamente non gli nuoce tanto, perché poi se uno dice devi dire la verità ai magistrati, non mettere in mezzo la mamma, anche con parole colorite, insomma, perché poi ci sono anche espressioni colorite in questa telefonata col papà, diciamo che Renzi non ne esce male. Certamente fa un po', mi viene in mente Berlusconi, perché dice ogni volta che risaliamo nei sondaggi, guarda caso, viene fuori uno scandaluccio. Cioè, la giustizia orologeria, insomma, no? Ritorna a questa espressione. Sì. Barbara, allora, leggo prima di lasciarci che è stato ritirato il testo base sulla legge elettorale, il PD aveva appena votato questa sera di no su questo testo base, quindi andrà avanti questa pantomima ancora per molto tempo. Direi di fermarci qui, Barbara, volevi aggiungere proprio una cosa di pochi secondi? No, hai detto bene, è una pantomima, probabilmente non arriveremo da nessuna parte e voteremo con le leggi che ci ha consegnato la Consulta. Molto bene, grazie Barbara Fiammeri. Grazie a voi. Ciao Barbara, buona serata. Ancora vostri messaggi, continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio, oppure i messaggi al 349-238-6666. A tra poco. La natura di prima mano. Vi presenta. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche la nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, ormai lo sapete, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, con voi Roberta Giordano. Riprendiamo allora il filo delle notizie. Abbiamo parlato ampiamente della vicenda Consip, degli ultimi sviluppi per quanto riguarda l'aspetto giudiziario e anche quello politico, e adesso invece ci occupiamo di una decisione della Cassazione sul divorzio, sulla separazione di Silvio Berlusconi da Veronica Lario. Però velocemente vi ricordo che, a parte questo argomento di cui parleremo tra pochissimo, tra i titoli principali c'è naturalmente appunto l'inchiesta Consip con la procura che indaga sulla rivelazione delle intercettazioni tra Renzi e il padre. Quelle frasi ribadiscono la mia serietà, ha detto l'ex presidente del Consiglio. Bufera su Trump, avrebbe condiviso delle informazioni di intelligence con la Russia e adesso l'Unione Europea avverte che se continuerà così non condividerà più informazioni segrete con gli Stati Uniti. E poi legge elettorale, il PD vota no al testo base presentato dal relatore, poco fa il testo base è stato definitivamente ritirato. Dunque c'è stata la decisione della Cassazione sulla separazione di Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Che cosa ha fatto la Cassazione? Ha respinto il ricorso di Berlusconi sull'assegno di mantenimento relativo al periodo di separazione a favore dell'ex moglie, appunto Lario. Separazione avvenuta dopo un lungo matrimonio celebrato nel 1990, dal quale sono nati tre figli. È stata confermata quindi la sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano nel 2014 aveva fissato a 2 milioni di euro l'assegno divorzile per Veronica Lario. Silvio Berlusconi scrive la Cassazione uno degli uomini più ricchi del mondo, 53 milioni di euro in media annuale come reddito, ed è rilevante, dice la Cassazione, la disparità dei suoi redditi rispetto a quelli della moglie. Inoltre, nella separazione il tenore di vita va garantito, perché la separazione non elide la permanenza del vincolo coniugare, quindi continua il dovere di assistenza garantendo il precedente tenore di vita. E ancora, dice la Cassazione, è un benefit dovuto per la lunga durata del matrimonio, del contributo morale e affettivo dato dalla moglie all'intera famiglia e per l'impossibilità della Lario di riprendere l'attività di attrice abbandonata con il consenso del coniuge molti anni prima. Vi ricordate, ne avevamo parlato giorni fa di questa sentenza, di questa decisione della Cassazione che stravolgeva una regola in vigore da 30 anni, con il presidente dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, Gianettore Gassani, che saluto. Buonasera Gassani. Buonasera, buonasera a voi. Quindi avevamo detto la scorsa settimana che la Cassazione, con una sentenza che riguardava, mi sembra, l'ex ministro Grilli, aveva stravolto questa regola che dura da 30 anni, cioè che il criterio per l'assegno di divorzio si è basato per 30 anni sul dover mantenere il tenore della vita matrimoniale. Da oggi, diceva la sentenza della Cassazione giorni fa, il parametro di spettanza, il criterio è la valutazione dell'indipendenza, dell'autosufficienza del coniuge, dell'ex coniuge che richiede l'assegno. Allora, in questo caso però qual è la questione? Perché è andata così? Ma la sentenza Berlusconi, parlo della sentenza della separazione, non ha niente a che vedere con la sentenza Grilli. Non ci sono punti di contatto. L'una riguarda la fase della separazione, cioè di quando Berlusconi e Verona Carico erano separati. Era una vicenda. Adesso sono divorziati, sì. Sono divorziati, ma questa sentenza riguarda la fase in cui erano separati, cioè quando Berlusconi riuscì a ottenere una riduzione dell'iniziale assegno di mantenimento da 2 milioni a 1 milione e 4, e da lì poi è nata una sorta di sottoprocedura che è andata avanti fino in Cassazione. Poi nel frattempo è stato incardinato il divorzio. Non è quindi che da oggi in poi Veronica Lario prenderà 2 milioni al mese a vita. È una partita tutta da giocare, perché questa è una somma che riguarda il passato, probabilmente una sorta di differenza da riavere tra 1 milione e 4 e 2 milioni fino al raggiungimento della somma finale. Mi spiego, la separazione non scioglie il matrimonio. La Cassazione più volte ha ribadito il concetto che nella separazione, poiché si è ancora marito e moglie, non si perde il diritto al mantenimento conforme al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, cioè esattamente il caso di questa sentenza. La sentenza qualche giorno fa dice invece che nel momento in cui c'è lo scioglimento del matrimonio, quindi parliamo di divorzio, marito e moglie diventano due perfetti estranei, perché mentre nella separazione si è marito e moglie fino allo scioglimento del matrimonio, addirittura si può fare pace, ci si può riconciliare, il divorzio cambia completamente le carte in tavola. Avvocato Gassani, però mi viene in mente questa cosa. Quando c'è stata la sentenza della scorsa settimana, molti hanno esultato, qualcuno per interesse, qualcun altro dicendo finalmente la parità tra donna e uomo, non è più vista la donna come la parte debole. Però leggo in questa sentenza della Cassazione, anche se si riferisce al periodo di separazione, che dice che l'assegno è un benefit dovuto per la lunga durata del matrimonio, del contributo morale e affettivo dato dalla moglie all'intera famiglia e per il fatto che lei, avendo abbandonato il suo lavoro anni fa in accordo col coniuge, non può riprenderlo. Quindi perché questa cosa, mi chiedo, non debba valere anche per tante donne che investono nella famiglia d'accordo col coniuge, che per anni non lavorano fuori ma dentro, si prendono cure e poi dopo non sono più in grado di mantenersi. Allora, innanzitutto la recente sentenza della Suprema Corte non ha abrogato l'assegno dal diritto di famiglia, ha semplicemente stabilito una regola diversa per la sua quantificazione, cioè nel momento in cui non c'è l'autosufficienza tu hai diritto a essere mantenuta, ma poiché non sei più la moglie, non sei più il marito, non puoi essere mantenuta per 50 anni con un vitalizio enorme. Su questo si può essere anche d'accordo, anche perché in Europa in effetti l'assegno divorzile è quasi scomparso. sono i patti prematrimoniali, ma non esistono rendite parassitarie, perché questo è il termine usato dalla Corte di Cassazione, rendite parassitarie. Un po' offensivo quando scriveva la Cassazione, il matrimonio non è più la sistemazione definitiva. Non è offensivo, però, nel senso che una si sposa per amore. Non sempre. Purtroppo ci sono anche questi casi. Comunque. Diciamo una cosa, che io farei un distinguo. Io mi auguro che la Suprema Corte di Cassazione, proprio per il ragionamento che faceva lei prima, possa fare degli aggiustamenti, perché sono perfettamente d'accordo quando la Cassazione dice che dopo 30 anni di vita insieme non si può liquidare con pochi soldi o con un ciao una moglie o un marito, perché poi ci sono anche molti mariti che ricevono l'assegno di mantenimento in Italia, non è soltanto un discorso di genere. Quindi io sono perfettamente d'accordo. Io credo che però ci sono stati degli eccessi nel diritto di famiglia italiane, perché abbiamo visto negli anni 90 e anche negli inizi del 2000 ragazzi di 22-23 anni solo perché mogli di calciatori incassare assegni da famiglia. Ci sono casi naturalmente particolari, però c'è tutto, quindi se non bisogna fare di distinguo. Io sono perfettamente d'accordo che se chi ha dedicato la propria vita all'altro non può essere liquidato così con questo nostro dubbio. Chiarissimo. Grazie avvocato Gassani, alla prossima sentenza allora. Grazie, buona serata. Viabilità. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Avete seguito tutti i 60 minuti quasi, mancano ancora 10 minuti, tra poco affronteremo altri argomenti. Abbiamo parlato dell'inchiesta Consip, dei nuovi sviluppi, delle intercettazioni pubblicate tra Matteo Renzi e il padre Tiziano e la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo su questa fuga di notizie. E poi per quanto riguarda la Cassazione che ha respinto il ricorso di Berlusconi, ne abbiamo appena parlato. L'altro argomento importante è questa bufera su Trump. E allora colleghiamoci subito con gli Stati Uniti. Marco Balsania? Ciao Marco, corrispondente del Sole 24 Ore degli Stati Uniti. Trump ancora nell'occhio del ciclone, perché il Washington Post ha scritto che Trump ha condiviso delle informazioni di intelligence, delle informazioni top secret con la Russia. La Russia ha smentito, però lui invece ha detto no, è vero, è un mio diritto perché abbiamo parlato di lotta al terrorismo, quindi è normale che io condivida delle informazioni di questo tipo con l'altra superpotenza che è appunto la Russia. Dopodiché l'Unione Europea ha minacciato, diceva, se tu Trump condividi queste informazioni con Putin, forse noi dobbiamo mettere uno stop alla nostra condivisione con le informazioni con te. Sì, la questione è complessa e difficile proprio per questo, perché di fatto Trump ha violato non delle leggi, ma un protocollo, se si vuole, non scritto, ma assai rigorosamente rispettato nella condivisione di intelligence, cioè la protezione delle fonti tra gli alleati. In questo caso le informazioni di intelligence è venuto fuori che venivano da Israele, sì, uno degli strettissimi alleati degli Stati Uniti, ma appunto il problema è più ampio, cioè la garanzia che gli Stati Uniti hanno di fatto violato di non condividere senza permessi, senza avere diciamo ottenuto l'autorizzazione delle informazioni top secret fornite da fonti di paesi alleati, che in questo modo possono essere messe a rischio e essere compromesse. In questo caso era una fonte talmente segreta che non era stata condivisa neanche con i più stretti alleati degli Stati Uniti, e quindi è finita per essere condivisa con la Russia, che non è sicuramente diciamo così un paese ecco amico fra virgolette, ecco. Quindi diciamo la bufera su Trump si spiega con questa diciamo così violazione di protocollo, e solleva di nuovo l'interrogativo di fondo sulla credibilità, sull'esperienza di questa amministrazione, del presidente stesso nel gestire la politica internazionale e la politica di sicurezza nazionale. Poi Marco, in chiusura, so che ha incontrato il presidente turco Erdogan alla Casa Bianca oggi Trump, no? Ha detto sosteniamo la Turchia contro l'ISIS, appoggio sulla Siria negli sforzi per mettere fine alle violenze, e sembra che insomma questo incontro per il momento sia andato almeno da un punto di vista diplomatico piuttosto bene dal punto di vista di Trump. Marco Balsania, sì. grazie da New York e salutaci in New York. Ciao Marco. Ciao, arrivederci. E avevo adesso davanti Dario Ricci, mica lo potevo lasciare lì ancora ad aspettare, caro Dario, perché stiamo attendendo qualcosa, sempre. Tu in particolare stai attendendo qualcosa per domani, è vero? Beh sì, diciamo non è un segreto, ecco, rimanendo in tema, che la Juventus arriva nervosetta a questa finale di Coppa Italia, perché il cammino verso la finale di Champions, passando per la conquista dello scudetto e della stessa Coppa Italia, sembrava più tranquillo, no? Poi la famosa tripletta, quindi ben tre. Il triplete, mi raccomando, usiamo il termine tecnico corretto. Detto questo, la sconfitta proprio contro la Roma di domenica sera all'Olimpico ha complicato questa cosa, perché la Juventus poi domenica avrà un nuovo match point, ma in casa contro il Crotone, che è la squadra più in forma del campionato, è tornato in corsa per la salvezza. E domani sera c'è questa finale di nuovo all'Olimpico contro la Lazio, che in una partita secca è assolutamente squadra temibilissima. Quindi oggi Allegri ha provato a scuotere i bianconeri, ma attenzione a questa Lazio, direi partita da tripla, cioè apertissima, perché Juventus col favore dei pronostici, ma la squadra di Simone Inzaghi, allenatore dell'anno fino a questo momento, davvero, se ce n'è una che può fare il colpaccio, questa è proprio l'Aquila. Tu vuoi fare delle previsioni? Diciamo che secondo me finisce supplementari e una volta che finite supplementari te lo dico domani. Va bene, prendiamo appuntamento con Dario Ricci dunque per questa finale di Coppa Italia domani, Juventus Lazio, che si gioca all'Olimpico di Roma. Tu sei stata sulla luna, se oggi gioca a Roma e vabbè, sai, tu guarda quante cose ho trattato finora. Grazie Dario Ricci, a domani allora, noi ci risentiamo alle 22.